Allora, ho preso un disco, un lento, ho messo, ho fatto musica, tutto a posto, ho fatto balla. Come dico ballare subito? No, sai, non mi va di ballare. Balla! Poi ci siamo messi a ballare, sono partito subito con l'incontro ravvicinato del quarto tipo. E qual è? Qual è? È quello che fa tutto così, un movimento del bacino, ventrale. Tipo una hop. Ma che una hop? Meglio! Tutto così, tutto bello. Mentre io facevo così, no? Lei si è subito messa così. A Filippina? Fallo un po' a te. Ecco così, bravo. Mentre io facevo così e ballavamo, no? Come dire, gli sollecitavo le cosce. Ma sapete che brividi. E che a mano intanto facevo su e giù, su e giù, come un ascensore. Ma guarda tu che sala avete! Vergognate, vezzozzi! Stavamo a fare una prova. Stavamo a scherzare.